A Pyongyang si sta tranquillamente bene, uno ci può andare a fare le vacanze tranquillamente che non ha problemi. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La rossa mi procura, schiavo dei balletti tuoi, con un'intercettazione. La minore è sicuramente una ragazza intelligente, furba, che, come purtroppo una parte dei giovani delle ultime generazioni, ha un solo obiettivo, quello di poter entrare nel mondo dello spettacolo, di fare soldi, e quindi con un obiettivo di guadagno facile, il cosiddetto purtroppo sogno italiano, potremmo dirlo. Ma sono o non sono un po' intrise di snobismo e, se volete, anche un po' di razzismo per quelle ragazze che tentano di entrare nel mondo dello spettacolo, che vogliono il sogno italiano, queste parole della Boccassini? Ferrara, Boccassini ha la sindrome di Cabobo. Sentiamo che c'entra. La Boccassini ha introdotto nel Tribunale di Milano l'uso di chiedere una condanna penale a 6 anni e interdizione perpetua dai pubblici uffici per un pettegolezzo. Questa è la verità. Io la chiamo sindrome di Cabobo. Allora, cioè, queste sono picconate date contro un uomo e contro delle giovani donne e contro la loro libertà. Sempre Ferrara, Boccassini paranoica. Guardi, io anzi ho proprio escluso di usare la parola tecnica paranoia, che pur si addice a certi comportamenti assimilabili a quello del PM Boccassini di Milano. Per chi non l'avesse riconosciuta, è la voce di Ferrara con il sottofondo di musica classica in questa nuova canzone compilata con la parrucca davanti alle telecamere. Buonasera, signor Parenzo. Buonasera a lei, signor Cruciani. Diciamo, direttorissimo, diciamo subito che la Boccassini in questa requisitoria se la poteva risparmiare, perché ha dato giudizi sociologici, morali. Ma come? Non stai sempre a dire è una requisitoria, dunque ci si mette di tutto. Ma un attimo, no, solo, no. C'è sempre Ferrara che dice che è un processo staliniano, processo staliniano. Beh, questo no. È un processo staliniano, una purga. Ripeto, è la sindrome Cabobo, è la picconatura di un uomo e delle abitudini sociologiche di giovani ragazze che amano fare televisione, frequentare gente ricca, divertente, che ha una grande villa e che vuole anche in modo burlesco ricrearsi. È il processo alla ricreazione di Silvio Berlusconi, uno scandalo in termini giuridici internazionali che rimarrà negli annali della mala giustizia. Ieri a Ballarò c'erano due personaggi, anzi uno, devo dire, eccezionale. L'hai notato anche tu, Parenzo, sicuramente. Il mitico professor Masullo. Ah, il filosofo. Il filosofo, certo. Masullo, 90 anni, ma lucidissimo, più volte parlamentare in realtà, prima del Partito Comunista, eccetera, eccetera. Ma questo non toglie nulla, ovviamente. Berlusconi come Nerone. Sentiamo. Mi fa molto pensare a Nerone, che era una brava persona, tutto sommato. Soltanto non bruciava Roma. Sì, appunto, ma perché? Perché incendiò Roma? Per renderla più bella. Per togliere la suburra di mezzo, per risanarla, come si dovrebbe fare per i nostri quartieri di molte città metropolitane, risanarle. Quale mezzo più rapido, più sicuro e soprattutto più spettacolare che darle a fuoco? Abbiamo già un ospite pronto, una vecchia conoscenza della Zanzara. Però, caro Parenzo, cosa dire di questo consigliere regionale del PDL, un tale Franco Rocca, in Liguria, il quale si è fatto rimborsare con i nostri soldi, sembra, ovviamente, sono solo accuse, con i nostri quattrini, anche con i tuoi che tieni dentro le tasche e tu li porti i soldi in giro, al contrario di me che non ho mai dei soldi contanti, uso sempre le carte di credito, si faceva rimborsare anche i fagiani. I fagiani, non ci posso credere, i fagiani, amici miei. In conto alla regione i fagiani, anche cene di pesce da Silvano a Zoagli, formaggi, biglietti comprati negli autogrill della Lotteria Italia, con i soldi nostri, no. Nostri! Anche la lotteria. Oh, è tornato d'attualità il signor Gigli. Te lo ricordi questa mattina da Milan, Gigli, che ieri di cui abbiamo parlato, deputato di Scelta Civica, che parla come dell'amico no? Cabobo. L'amico Cabobo. Lui è un medico, però ricorda che è medico. È neurologo, l'amico Cabobo, senti. Se un cittadino, come segnalavano i giornali questa mattina, il Messaggero Veneto di Udine, friulano, diciamo ammazza una persona in quel di Lodi, è un poveretto che come dire, ha dato fuori di testa. Se un soggetto come il nostro amico Canese esce fuori veramente di testa, allora no, non è un folle come in realtà è, uno che sente le voci, uno che probabilmente ha perso, come dicevamo, la bussola in ragione anche delle condizioni di vita in cui si trova, non è un folle, è un squallido negro che va probabilmente preso a sua volta a bastonate. L'amico Ganese Cabobo. L'onorevole Gigli, un attimo solo, sì, vabbè, abbiamo tempo per parlarne. Ma 800... non abbiamo tempo perché poi rimangono lì le cose. 800 24 00 24 è il numero magico per parlare con noi. Direttore, come stai? Direttore chi? Direttore Fede, ancora sei direttore, no? Sono direttore, certo. Ma perché non smettete di urlare? Sembrate presi, oh, vi state montando la testa, datevi una calmata. Sarai sempre direttore, lo sai, no? Sono sempre direttore, certo. Sarai sempre, altro. Anche se Berlusconi non ti invita più, e vabbè, tu sei molto triste, questo l'abbiamo accertato dal Corriere della Sera l'altro giorno. L'ho detto, l'hanno scritto, e sarà anche vero, no? Ce lo devi dire tu se passi le serate da solo triste invece di passare alla casa di Berlusconi, scusa, Se non passo le serate a casa di Berlusconi, passo le serate tristi più o meno. Io sto scrivendo un libro e ce ne sarà per voi che veramente mi porterete in tribunale. Perché ho deciso. Ma come da noi? Sì, voi due. Guarda, c'ho mia moglie in macchina con me, ha detto voi due sono due mascalzoni. Vabbè, fa niente. Ma scusa, non credo, ci vuoi portare in tribunale sul serio? Ma che tribunale sul serio? Ma là che sto scherzando? Oh. No, ma che ne so. Senti, ma l'hai visto l'altro giorno lo speciale di Mediaset? Quello su Berlusconi e Rubi? Posso avvalermi della facoltà di non rispondere? No, su questa cosa devi rispondere, voglio capire se... No, allora ti dico, guarda, con molta sincerità, ho evitato volutamente, voluttuosamente di guardarlo. Perché? Cioè, perché na, na, na, perché na, na, na. Perché la domenica mi lasci sempre solo e vai a vedere il metto in tamballante, però che sia, no, comunque non ho voluto, guarda, perché non, ma perché non l'hai visto, scusa, non ma ho capito, perché non voglio dare giudizi. Ma è un'operazione che ti piace oppure no, questa qua di fare, no, diciamo, il controprocesso? No, non ti piace? No. Non l'avresti fatto? Non l'avresti fatto? No, io non l'avrei fatto, non ne ha bisogno. Capito il discorso? C'è un'operazione servile, troppo servile. No, servile. Ma non è questione di servilismo, allora io dovrei essere il servo sciocco, ma no, io... Beh, qualcuno dice, per esempio, che Pamparana, qualcuno dice che Pamparana si è trasformato nel nuovo Fede. No, guarda, Pamparana è un collega intelligente, quindi va rispettato. Io dico sempre una cosa, io sono ruffiano, certamente, ma per essere ruffiani bisogna essere intelligenti, altrimenti si scade. E dunque? Allora, non è il caso... Pamparana è una persona per bene. Se dici così. No, ma io parlo in generale del fatto di dover fare dei tributari. Berlusconi non ha bisogno di questo, perché Berlusconi, abbiamo visto, parla. È diventato, cioè, controproducente, è dici tu. È il leader, non c'è più nessuno. Cioè, tu dici è controproducente. Come? Cioè, tu stai dicendo è controproducente fare uno speciale per difendere Berlusconi. È controproducente cioè difendere Berlusconi è d'obbligo, no, ma fare rispetto della, sì, no, rispetto della giustizia certamente, ma rispetto di quella, no, sto dicendo fare uno speciale, no, scusami un attimo Emilio, non stiamo parlando del processo, fare uno speciale, no, su Mediaset è controproducente per Berlusconi, dici? Io, tu hai chiesto cosa ne penso io ti dico, io personalmente non l'avrei fatto. Non l'avresti fatto perché fa un danno a Berlusconi, dici? No, non perché fa un danno a Berlusconi, perché non ne ha bisogno. Un danno, un non ne ha bisogno. No, ecco, non ne ha bisogno, lui non ha bisogno. Ma l'ha deciso lui, secondo te, o l'hanno fatto quelli più realisti del re? Ma i più realisti del re, in genere, non è un periodo in cui lui nella sua vita, nel suo futuro, nei problemi giudiziari, di governo, eccetera, si preoccupa di questi aspetti qui. No, appunto, lui non l'ha deciso. Farina, non è farina del suo sacco. E di chi è? E che ne so chi portava il sacco, bisogna andare a vedere chi era lui. Ho capito, c'è qualcuno che l'ha fatto senza che Berlusconi lo sapesse, dici? Guarda, questo non arriverei a dirlo visto che è stato intervistato. Ah, ecco, certo. E la costruzione dal punto di vista televisivo e giornalistico che a me non convince. Cioè, capito? L'intervistatrice è bella, indubbiamente, eccetera. Però? Che intervistava. Alla fine l'hai visto, sì. Alla fine l'hai visto. Barabuc, Barabac, va bene. Era più protagonista lei di Ruby. No, c'è delle cose, ma parlo dal punto di vista mio, però dicendo anche che il TG4 e tutti gli annessi e connessi, da quando li ho lasciati, sono migliorati. Zanzara Party di questa sera con David Parenzo in collegamento da Roma, per strada, in macchina con l'autista e la moglie Emilio Fede, credo a Milano. Bene, credo a Milano. La moglie, è vero, sì, credo a Milano. Laghi, sì. Un attimo, ti faccio sentire una cosa, Emilio. Ti faccio sentire Grillo, che è un audio che abbiamo preso da affariitaliani.it, ma credo che sia di Più Economia, vabbè, questo per citare la fonte. Il Grillo che ad Avellino non riconosce il suo candidato sindaco. Sentiamo. Noi stiamo chiedendo il comodato d'uso per l'associazione, cioè sia l'associazione, cioè, e lei è il comitato di gestione. Lei è dell'associazione. No, io sono il comitato di sindaco. Lei è il candidato sindaco, quella che dovremmo presentare. Lei me lo dice adesso. È un grande caro, allora è meraviglioso. Cioè Fede, no, sì, Fede, Grillo non conosceva il suo candidato sindaco, pensava che fosse una dell'associazione, eccetera, eccetera. Vabbè, uno può dire cose che capitano. Beh, cose che quella roba lì, per forza, li sceglie la rete. Se vuoi chiedermi se io conosco qualcuno, io li conosco tutti. Ma chi? Vabbè, tu conosci tutti perché vivi di queste cose, che c'entra? Su, dai. Senti, ma è vero, come ci ha detto l'altro giorno quel Chiesa Soprani? L'altro giorno Chiesa Soprani, qui alla Zanzara, ha detto che tu hai fatto da tramite per mettersi in contatto con lo studio di Ghedini, che poi gli ha offerto 2.500 euro per non fare un'intervista e gli voleva offrire tipo stipendio dell'Olgettina. È vero o no? Guarda, no, Francesco Soprani va capito nella sua nel suo furore, cioè nella sua non lo so neanche come definirle, fuori di testa. Lui ha detto che non so che cosa, e che io gli avrei detto rivolgiti all'avvocato, sì, mi pare la cosa più normale. Rivolgiti, no, a Ghedini, gli avresti rivolgo detto. All'avvocato Ghedini, so. Ma è vero o no? Che io gli abbia detto, ma non sapendo di cosa lui vuole intendesse parlare. Io conosco questo Francesco da Paola di Sigaretti Soprani e Grassetto, come cacchio si chiama lui, sì, lo conosco, sì, molto bene, l'ho anche aiutato molto. No, ma questo ce l'hai già detto. Ma è vero che vi siete incontrati nel suo studio a Milano 2, sì o no? Ma guarda, mi avrà telefonato, forse non ho capito bene perché cosa dice, ma può aver proposto che non so che cosa. Io ti ho rivolgiti agli avvocati, inutile che ti rivolgi a me. No, non so, lui è a caccia di soldi, e lui è nato a caccia già di soldi. Quando è uscito l'idea, è solo a caccia di soldi, dici tu. È solo a caccia di soldi, perché si è rovinato per il gioco. Ma comunque per non il è gioco, perché problema. Che ha fatto col gioco? Ha perso giocando. Sì, però scusa, posso dire. No, ma lo sai che ci ha detto che c'erano due tipi di feste, quelle dove andavi tu e l'elemora dove si faceva sesso, invece quelle dove andava magari Carlo Rossella, che invece erano cene eleganti, questo dice lui. Ma su io, lui può dire qualunque cosa. No, vi prego, voi siete delle persone certamente intelligenti, non sempre intelligenti, ma provate ad essere intelligenti. Beh, adesso non sempre intelligenti. Ma ci fate uno sforzo, vabbè, no. Vabbè, allora no, lasciate perdere. Questo è è un poveretto, ma poveretto non è il problema economico, proprio di testa, è andato di testa, ritorna adesso dicendo neanche se mi dà un milione, sì, io tanto, sì, sì. Ma non è che lo scemo gli dà un milione a lui, dà un milione, no, per tacere, dice, per tacere, come? Per tacere nemmeno... Ma no, ma scusa, ma è la terza, la quarta volta che viene fuori con queste stronzate. Su, insomma, voglio dire. Senti, ma la Boccassini che te ne parte invece della requisitoria della signora Bocca, come mai è così ossessionata da Berlusconi, secondo te? Qual è il problema fondamentale? Guarda, sentendo la Boccassini, mi è venuto il dubbio, sì, che lei ce l'abbia con Berlusconi, che dici? Sì o no? No, ma quello sicuro, ecco, ma che cosa ti è venuto in mente? La stretta di mano non è servita, no, ma al di no, là di questo, quello no. Guarda, ma è ossessionata, il sesso, no, per esempio. Ma non usiamo neanche il termine ossessionata, sai cosa mi auguro io? Che sono quasi certo che verrà fuori, perché la giustizia, sì, c'è, un tribunale c'è, qui è l'accusa, sentiremo la difesa, sentiremo, vabbè, quello, il tribunale, quello certo. Guarda, vi voglio dare, guardate, io sono uno di quelli, diciamo così, tirato in ballo. Allora, sì, Ruby dice che non l'ho portata io a Varco, sì, e l'ha portata Ruby, dice tante cose, l'Elemora dice che l'ha portata lui, Berlusconi dice che l'ha portata l'Elemora. Bene, per la Boccassini l'ho portata io. No, sapevi che era minorenne e l'hai detto a Berlusconi, ma no, questo ma dice. Ti pare possibile che io incontro una persona che manco riconosco e mi posso preoccupare, scusi, mi dica lei che taglia porta, è minorenne? Ma sembrava minorenne? Sembrava una ricostruzione? No, lei dimostrava dai 25 ai 28 anni, ma non era né l'interesse mio. Ma è vero che la chiamavi la sicula o no? Come? È vero che la chiamavi la sicula o no? Che la chiamavi la sicula, la sicula. Ah, la sicula, sì, è siciliana. Ah, la chiamavi così, la sicula? Vabbè, non c'è niente di male. Scusa, però adesso vogliamo arrivare a una conclusione. Non sarebbe molto più semplice dire che Berlusconi è andato a letto con Ruby? Cioè, uno è andato a letto con Ruby, punto. Guarda, ma nessuno potrà dire, tantomeno io, ma non per proteggere Berlusconi, ma secondo te, per che uno possa dire che uno è andato a letto con quello o quello con l'uno, questa al buco della serratura? No, ma lo dice, l'ha detto anche lei, credo, nei primi interrogatori l'ha detto anche lei, credo. Fammi dire questa cosa, cioè, no, non poteva non sapere l'età, che era minorenne, dice la Boccassini. Come non poteva non sapere? E perché arrivando una persona, un ospite in casa che io vedo per la prima volta, manco mi ricordo, dico scusi, ma lei quanti anni ha? Ma cosa me fregava a me? E cosa fregava Berlusconi? Dovevo immaginare che Berlusconi potesse, e lo escludo nella maniera più totale, interessare sessualmente questa ragazza. Credimi, se anche voi che siete di bocca buona la vedete, non vi viene voglia di provarci. Ah, niente, dici di no. Dai, su. Cioè, dai, Berlusconi non c'è mai potuto andare insieme? No, io potrei. Guarda, cioè, perché faceva schifo? Faceva schifo, secondo me. No, ma la parola faceva schifo non la dico. No. Ho usato un termine poco elegante nei suoi confronti e mi dispiace. Qual è? Qual era è? Una Qual ragazza è? Che devo dire, no, ho detto una parola brutta, insomma, ma non c'entra niente, perché io l'ho vista una sola volta, non ho niente contro di lei. Però tu dici non era il tipo di Berlusconi. Ma io dovevo immaginare così. Cioè, si può permettere, dice, ragazze molto più belle. Non è quello il discorso. E qual è? Allora, perché dici che non ci poteva mai essere, che non ci può essere andato mai a letto? Scusa. Ma no, ma perché non è, non so come dire, non era una persona che ti attirasse per dire adesso con questa posso provarci. Perché? Ma perché poi, non attira, ma, secondo te, la signora Ruby? A me non attira, ma neanche lui era attirato da Ma perché? Che attirato, c'ha? Che c'ha che non attira? Lui ha un maledetto torto. Qual è? Quello di voler aiutare tutti quanti. Vabbè, questo lo sappiamo, questo lo sappiamo. Ma no, ma è la verità. Ma perché non è attirato da Ruby, secondo te? Che cosa c'ha Ruby che non va? È troppo, no, ma, troppo grassa, perché, troppo, che c'ha? Ma non lo so, è una persona che io manco mi ricordo. Cioè, capisci cosa però non dire? Attira particolarmente dal punto di vista sessuale, dal no, punto di vista francamente, ma vista vestita di nero ballava facendo le bollicine con sì? la bomba americana, sì. Francamente di attraente non c'era niente, questo non che la ragazza, guarda, era una ragazza che lui ha creduto di poter, però gli ha dato 4 milioni e mezzo. Emilio, vabbè, abbiamo la pubblicità, ma, torniamo ma subito tu ci credi? Ma certo, no, che ci credo, quelli pare che ci siano i bonifici, Ma prima smettete di urlare, sembrate presi. Oh, vi state montando la testa, datevi una calmata. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo a fiè, ma lei gira sempre intorno a me. E bagno sul twist, e siamo in guerra. Noi stiamo andando avanti con denunce, con una fatica enorme, ma andremo sempre più avanti. E a settembre-ottobre, quando crollerà tutto, perché Berlusconi farà crollare tutto, perché non ha altra alternativa che andare alle elezioni e cercare di vincerle, chi ci sarà a settembre-ottobre quando succederà questo? Il PD sarà scomparso perché ormai è sotto il 20%, ci saremo noi e il Nano! Secondo Grillo a settembre ci sarà solo il Movimento 5 Stelle contro il Nano, come lo chiama lui. Effettivamente Berlusconi, nonostante tutto quello che succede, sembra che gli italiani siano tornati a innamorarsi di Berlusconi, cioè cresce nei sondaggi nonostante i processi, o forse grazie ai processi, come al solito. Questo lo dice Bagnoncelli a Ballarò ieri. Cosa ha detto Bagnoncelli a Ballarò? Scusa se non seguo Bagnoncelli a Ballarò, perdonami. No, esattamente che sì. Il PDL, che esattamente pensavo che l'avessi desunto da lì il dato della crescita del partito di Berlusconi. Sì, anche da vari sondaggi. Allora, il palo della lap dance nei meandri della villa di Arcore. Senti il direttore di Studio Aperto, Toti, dire il palo, noi non l'abbiamo trovato in realtà, forse era una delle bandiere di Forza Italia. Ma è vero che non c'era il palo della lap dance nella stanza del palo? Io non l'ho visto il palo della lap dance, ho visto qua è chiamata la stanza del palo e non c'era il palo. Forse erano i pali delle bandiere di Forza Italia che abbiamo fatto vedere, venivano staccati e usati all'occorrenza, io questo non lo so, lì il palo non c'era. Pare che Toti è dotato di una ironia che pochi conoscono, hai visto la risposta? No, la risposta pronta, forse erano quelli delle bandiere di Forza Italia. Allora, il signor Airaudo, deputato di SEL, senti cosa dice del cantiere della TAV, della violenza, eccetera. La violenza è nata dalla situazione marcia. Ma qual è la situazione marcia? La situazione non è marcia, è che ci sono un gruppo di delinquenti assatanati, di delinquenti disposti a tutto pur di far saltare la TAV e pur di accendere la tensione. Il problema è solo questo, non c'è una situazione marcia, poi uno può contestare o meno l'opera, ma non c'è una situazione marcia, ci sono un pugno di delinquenti assassini, un pugno di delinquenti potenziali assassini, anzi, che sono disposti a tutto. Cosa sta succedendo? Telegramma, che da 25 anni si è fatta marcire una situazione che la politica pensava che il tempo avrebbe risolto, ci sono dei grandi interessi per un'opera inutile. E poi ci sono delle violenze inaccettabili che sono però cresciute in questa melma in cui si è lasciato tutto un po' marcire. C'è sempre un ma, un però, un forse, sì, però, la melma, eccetera, eccetera. Qui ci sono decisioni prese da più governi, diciamola tutta, e ci sono dei delinquenti che assaltano il cantiere, che sono disposti a qualsiasi cosa e che chissà perché non vengono bloccati, perché sarebbe molto facile bloccarli in realtà. 800 24 00 24, andiamo con il TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Alta tensione sulla giustizia, il PDL ripresenta la legge Alfano sulle intercettazioni, PD vogliono lo scontro, il CSM cancellieri difenda i magistrati. Riforme, il 29 maggio dibattito in aula, ma sul sistema di voto è muro contro muro, sondaggio del TG3 su governo e partiti. Amministrative del 26 e 27 maggio, a Roma si elegge il sindaco, tanti candidati ma la vera partita si gioca a 4, Alemanno, Marchini, Marino e il 5 Stelle De Vito. PIL ancora in calo, è il settimo ribasso consecutivo, un record, l'Italia da 21 mesi senza crescita, male anche l'Europa, frena la Germania, Francia in recessione. Hanno svenduto Taranto all'Ilva, con questa accusa arrestati il presidente della provincia e 3 funzionari, per loro si ipotizza il reato di concussione. Un lunghissimo applauso e commozione ai funerali delle 8 vittime del molo di Genova mentre si cerca il nonno disperso. Il capo dello Stato si stringe ai familiari. Quando ho capito che la bomba era per me, sono nato una seconda volta. Così Maurizio Costanzo ricorda l'attentato di 20 anni fa in Via Fauro, inizio delle stragi mafiose sul continente. È la zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla nella stanza. Eccoci qui con Stefano da Pesaro. Buonasera Stefano. Buonasera a lei, Cruciani. Vada. Senta, potrei parlare, rivolgermi a Parenzo, se possibile. Non ho capito, scusi. Vorrei rivolgermi a Parenzo. E si rivolga a Parenzo, faccia quello che vuole. Vada. Ok, grazie. Ascolti, prego. Parenzo, senta, io non credo che lei abbia necessità di poter condurre, può condurre una trasmissione bella. Scusi, dove si trova lei, Stefano, che non si sente nulla? Scusi, dove si trova? Diavolo, maledetto. Stefano, dove si trova? Ho accostato. Oh, ecco, bene, si fermi un attimo e parli bene, perché altrimenti non la sentiamo, eh? Sì, ho spento la radio. Bene, allora, vada, vada. Allora, le dicevo, a Parenzo, che non ha nessun... Sento un ritorno, comunque. Ho capito, signore mio, io che cosa posso farle? Parli e vada. Sì. Allora Parenzo dovrebbe, dal mio punto di vista, abbandonare la co-trasmissione, sì, la co-conduzione, abbiamo capito, su, parli italiano, dai. Sì, perché è una questione di stile. Di stile, allora, sì. Un giusto mezzo che dovrebbe un po' guidare la conduzione, un equilibrio. Sì. Vabbè Stefano, al di là di questi consigli che vuole dare a Parenzo di lasciare la conduzione della Zanzara, cosa ha da dire? Perché non è che noi possiamo stare ad ascoltare lei che dice no, Parenzo dovrebbe lasciare la trasmissione, perché va benissimo, è il suo parere, ma ce ne freghiamo. Scusi, sì, se io dico. Infatti finisco immediatamente, per me è importante poter dire, sì, a Parenzo, importante, sì, che lo stimo, anche se a volte è un po' eccessivo, ma non perde mai, sì, quello stile che lei invece, Cruciani, perde, perché sì, certamente, perché ma che è cosa curioso, vuole? Si può sapere cosa vuole che tu te ne vada da questa trasmissione, signor Stefano. E poi? Ma non lo so, è un consiglio che ti vuole dare, perché secondo è irricevibile fino a quando non mi ricevi, sono Cruciani. Grazie. Ok, carissimi. Buona grazie, serata, grazie, allora. Grazie, grazie. Ma guarda te il mio telefono. Giuliano? Eccomi. Eccoci qua. Allora, come ti è venuta in mente questa idea meravigliosa? Ma io dopo il draft volevo fare una cosa sul melodramma, ma aspettavo un momento. Ma perché sei andato a Firenze l'altro giorno? Ecco perché sì, ti è venuto in mente il melodramma, perché sei andato non so dove, all'opera a Firenze. Comunque il quartetto del Rigoletto è uno dei più bei pezzi d'opera, certamente dei più bei pezzi d'opera verdiana che esistono al mondo, quindi era molto onorevole cantare in modo arruffato le quattro voci. Ma la parrucca dove l'hai comprata? La parrucca me l'ha comprata Piero Vietti in via del Governo Vecchio a Roma. Ah, in via del Governo Vecchio, così c'è. L'ha pagata lui o l'hai fatta pagare al foglio? L'hai no, messa? L'ha pagata lui. Ah, l'ha pagata lui, cioè manco. Anche gli orecchini al lampadario e quegli occhiali leopardati. Vabbè, Giuliano, allora, senza questo sottofondo orrendo, dici un po' meglio le parole, cioè ripetici un po' le parole che non abbiamo capito. Il sottofondo orrendo è la Scala, è uno dei più belli. No, però si confondeva, no, orrendo perché... Muti, Alagna, Renato Brusone, eccetera, comunque... Sì. Io sì, posso fare una piccola cosa didascalica, utile credo per il pubblico della Zanzara. Molto utile. Ecco, a parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata di Parenzo. Anche tu sei per l'eliminazione, sì, di Parenzo? Come? Allora, il quartetto è fatto così, c'è il Duca, no ma scherzo, il quartetto è fatto così, c'è il Duca di Mantova, sì, amante di Maddalena, sì, che si era promesso a Gilda, figlia di Rigoletto. Il sì, quartetto sono tutti e quattro in scena, da una parte in una specie di grottino Rigoletto, sì, e la figlia, sì, e sul proscenio il Duca di Mantova e Maddalena che amoreggiano. Sì. Allora il Duca di Mantova dice: bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto sol tu puoi, le mie pene consolare. Allora io l'ho cambiato, Hilda rossa di procura, schiavo dei pandetti tuoi, con un'intercettazione puoi, le mie cene vendicar. Poi il Duca dice: ma questa è già stupenda, è venuta... del mio cuore il frequente palpitare, io faccio vieni e senti, del suo cuore sarebbe Rubi, sì, la furbizia si orienta, con un'intercettazione poi questa volta le mie pene alleviar. Ma è una cosa meravigliosa, ma complessa, insomma, anche è filologica, complessa filologica da capire pure, eh? Non è semplicissima da capire. Non è tanto difficile da capire. Il Duca parla a Maddalena, la sua sì, carima Elma Rugg, sì, poco prima di palpazioni terribili che le infligge, e le dice che è bella figlia dell'amore, sono tuo schiavo, eccetera, eccetera, eccetera. A quel punto Maddalena dice, e questa è la seconda parte, ah, arido bendicare che tai boi, vai e costa un poco, ah, così, dice Gilda, interviene Gilda, ah, così, parlar d'amore, quanto valga il vostro gioco, me il credete, so apprezzar, ripete Maddalena. Sì. Allora io ho sostituito, ah, arido bendicore che tai borse costan poco, nel quadrilatero della moda, perché la Boccassini ha parlato molto male di uno dei principali pilastri dell'economia italiana. Come no? Contemporanea. Certo. Il made in Italy. Pur essendo andata, pur essendo andata una volta nel quadrilatero della moda ad acquistare una cosa, come, vabbè, come documentato da chi? Come... è una notazione personale. Beh, la conclusione che... qual è? Io non so. La conclusione qual era? Della... La conclusione è sempre sulle mie scene vendicare, cioè il quartetto va avanti così, a me pur l'infame udito, e Grigoletto fa taci, il piangere non vuole, infelice cor tradito, dice Gilda, e l'angoscia non scoppiar, no, no, no. E poi finisce il Duca che dice le mie pene consolar, perché è un quartetto, sono voci che si sovrappongono. Vabbè, ma comunque devo dire la verità, tienici da conto Monti era più semplice da afferrare, qui è una cosa che hai costruito in maniera complessa, filologica. Ma ragazzi, filologica. Ma è il bicentenario di Verdi, mica il bicentenario di Monti. Lo so, Monti, ho capito, ma l'ossessione della Boccassini non viene fuori da questa cosa qua, viene fuori o no? L'ossessione. Ma no, l'ossessione della Boccassini viene fuori dalla parrucca, dagli occhiali, dai... Comunque, guarda, oggi Sabelli, il capo del sindacato dei magistrati, mi ha attaccato, ha detto che non mi posso permettere di deridere i magistrati. E gli ho risposto in un'intervista al Libero dicendo, effettivamente io non penso ci sia niente da dire, c'è da piangere. Ma come? Sono dei talebani, capito? Dei talebani che vogliono imporre la loro filosofia di vita, come quelli del Palace Sharp che misero un ragazzino di 13 anni a dare del maiale a Berlusconi sul palco di una manifestazione politica. Neanche negli stati di Kabul succedono queste cose. Scusa Giuliano, ma non ho capito, secondo il capo dei magistrati tu non ti puoi mettere la parrucca della Boccassini? No, non posso deridere un magistrato perché l'imparzialità della giustizia esige il rispetto civile comune, e allora la giustizia se lo deve conquistare. Ma comunque tienici da conto Letta, devi fare fra poco, tienici da conto Letta. A parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata di Parenzo, Vabbè. Gerani, mettiamo Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Ingroia oggi ad Aosta. Io adesso spezzo un figo d'India per Ingroia, perché spezzo un figo d'India, perché io mi identifico, perché mi ricordo quando feci l'animatore mi dissero dove vado, in Costa d'Avorio, in Egitto, dove mi mandate? No, vai a Pila. Dove Pila? Ad Aosta. Ah, dico io. È bellissimo, vi potete, però quando arrivai, insomma, o accusai il colpo. Vedi queste cose strane? Come ha visto lui quando è arrivato, ha detto cosa sono quelle cose? Quello gli ha detto montagne, sono montagne, sono montagne. Lui è arrivato col suo maglioncino in filo di Scozia, è stato accolto da un camoscio che gli... da un camoscio che gli ha detto, vedete, benvenuto caro Ingroia, povero Ingroia. Allora sta già indagando sul traffico di neve, perché la matrioska è laica e suona come si è presentato ad Aosta alla fine Ingroia, ma è andato subito in ferie. Una cosa pazzesca. Senti che ci hanno combinato quelli di Ciao Belli, va. Ciao Belli, sentite. Maggio lo stregone Rasputin. C'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Zanzara. Allora parlo con la Zanzara, Radio Ciao 24. Belli, Radio DJ. Io chiamo da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, male, cazzo. Io purtroppo lo ero solo da giovane. Sì. Poi sono finito in galera, sono andato a letto con una ragazza di 16 anni che ne dimostrava 42. Questo questa non è Radio 24. Questa è Radio DJ, ciao belli. Ma cazzo, ma non mi potrete fermare prima, figlia della ragazza. Beh, ci abbiamo provato, scusa. A parte che avrei dovuto dedurlo dal suono del microfono. Che oggi è un po' particolare. Eccolo qua, il numero di Radio 24, l'ho trovato, fermi. Sì, sì, sarebbe anche ora. Ecco, chiami là. Buongiorno, sono io, sono passato. È Radio 24? No, è le... sono le 24 ore. Vabbè, io sono Giambattista De Montis, no, mi volevo prenotare per parlare con Cruciani stasera. Deve fare lo 0800 824 0024, solo così. Ma come siete preziosi pure voi, No, quasi che se chiama subito la linea. Non mi rispondono, Rispondono, è solo quello. È che quello è il dottor Cruciani, è un caghinelli. No, glielo dica quello, che cacchio. Ma lei lo vede? No, noi no, dico. No, non lo vedete. Ma dove stanno loro? In che via? In via Monterosa 91. Perché se lo vedessi gli potrei parlare della nella mia Fiat Torero. Ho una macchina, la Fiat Torero, che il cui tubo di scappamento mi butta dentro a me, no? Dentro. Deve parlare con loro. Quindi non... No. Salve, buongiorno. Senta. Va bene, 800240024, Alessandro da Catanzaro. Buonasera, Alessandro. Buonasera, Cruciani. Buonasera, Parenzo. Vada. Senta, ma a me Parenzo sta simpatico. Io voglio che lo tenete, non mandatelo via. Io lo chiamo. Ma chi lo manda via? Ma non c'è un referendum in atto, non c'è un referendum. Ma è quello di prima, è quello di prima. Per me è un leone, Parenzo. Vabbè, sì, un leone, sì, non esageriamo. Un leone. Perché il leone è il re degli animali e Parenzo è il re degli stronzi, invece. Capito? Mamma mia, che genio che è lei! Che genio! Che risate, che divertimento! Aspetti un attimo, che affitto un'altra risata. Aspetti un secondo, scusi, mi dà una risata per cortesia. Scusi, Alessandro, ma perché dice così? Perché? Pronto? Ascolti, Cruciani, ma lei ieri sera ha detto, sì, parole sue testuali: io ritengo che la Boldrini, sì, non dovrebbe mettere la bocca su tutte quante le questioni, giusto? Più o meno ho detto così. Sentiamo la battuta, guardi, io invece voglio dire che io c'ho qui tra le gambe una questione dove vorrei che la Boldrini ce la mettesse proprio la bocca, Cioè, mamma mia, Alessandro. No, ma hai capito l'intellettuale di Catanzaro, il professor Alessandro da Catanzaro. Ma vada a quel questo paese. Questo povero maniaco sessuale. Ma lei quasi da denunciare. No, da denunciare no. Ma se una diventa una sex symbol come la Boldrini, eccetera. Ma chi l'ha detto che diventa? Nella sua volgarità inaudita. Ma nella sua mente malata diventa una sex symbol. Nella sua mente malata. Una volgarità inaudita. Prendato, che ormai è tutto finito. Teresa da Roma, buonasera. Ma questa è gente veramente male. Teresa da Roma, stai tranquillo, stai calmo. Hanno aperto le gabbie, hanno aperto. Stai tranquillo. Allora, posso parlare? Prego, Teresa, dica. Allora, buonasera, Cruciani. Guardi, sì, volevo dire la mia, io sono sì, ma la dica. Sì, volevo dire la mia sulla Boccassini. Sì. Che secondo me soffre di una sindrome convulsiva. Sì, compulsiva si dice. Convulsiva, sì. Convulsiva è un'altra cosa, sindrome convulsiva, come no, le convulsioni. No, proprio c'ha proprio delle convulsioni terribili. Sì, sì, no. Perché? È contro Berlusconi e con Berlusconi e per il sesso, secondo me. Cioè in che senso, scusi? Nel senso che mi sembra proprio accanita in una maniera tale, è perfino comica. Non è una tesi nuova. Vabbè, sentiamo Andrea da Cuneo, va Andrea. Io allora mi riaggancio a questa questione qua, ma sì, secondo me la Boldrini non è ossessionata dal sesso in particolare. La Boldrini o la Boccassini, non ho capito, non confondiamo le cose. La Boccassini, scusa. Sì. È proprio secondo me una questione di pura e semplice invidia femminile verso una donna più bella di lei, basta. Cioè, io ho conosciuto. Ma quale sarebbe donne... la donna più bella di lei, scusi? Non so, una qualunque ragazza. Cioè, che le oggettine, magari... dice, invidiosa, sì, delle esatto, oggettine. Sì, esatto. Ma non mi pare invidiosa delle oggettine, adesso oggettivamente. Lei sta facendo un processo alla psicologia della signora Boccassini. No, dalla requisitoria, dall'atteggiamento della requisitoria, sì, mi è sembrato di riconoscere certe frasi che magari ascolto da magari donne pur culturate, con successo. Sì, sì. Che però poi scadono nell'invidia per la caviglia della Belen, la gamba di questo. Ma veramente non ha parlato della caviglia della Belen, no, ha detto capito, semplicemente che ho capito, ha parlato però... dell'ambiente, sì, dell'attrazione poi... per un certo mondo, cose esatto, secondo me assurde, perché esatto, una requisitoria sì, non è un trattato di sociologia sulla infatti, Milano da bere, diciamola però, tutta. L'atteggiamento ringraziamento, il tra le righe che mi è arrivato, mi è sembrato di vedere questi atteggiamenti banali, squallidi anche, scontati di certe donnette che pur di criticare si attaccano a qualunque cosa, ma perché nascondono una banale frustrazione. Vabbè, adesso lei, secondo lei la Boccassini è frustrata, adesso non arriva, come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, che vuol dire? Si può dire che alcuni passaggi erano un po' assurdi, quello sulla furbizia medio orientale, anzi, e l'altro in cui ha parlato di, no, di queste donne che vogliono arrivare facilmente al denaro, facendo quasi un trattato, una critica ad alcune ragazze che si vogliono guadagnare dei soldi, secondo lei, facilmente. La zanza. Bene, siamo. Parenzo, ci sei o no? Però scusami, facendomi giuro, ho ascoltato fino adesso queste considerazioni, chiamiamole così, di questi intellettuali che telefonano. C'è? Il problema, volevo dirlo anche a Giuliano Ferrara, ma non c'è più Ferrara. No, adesso non c'è più, dimmi. Perché qui non si tratta di un processo che parla di Palpazio, ma la parte più considerata di quel tu tendi a vabbè, però adesso non entriamo nel dettaglio, chi se ne frega, abbiamo un ospite, ma chi se ne frega, abbiamo un ospite che è l'avvocato Piero Longo, buonasera. Ah, meraviglia. Avvocato, come sta? Sto bene, voi come state? Beh, combattiamo. Ah, ma io quando sento Longo, guarda, ti giuro. Ma perché giuro, sei padovano come lui? Per quale motivo? Quando io sento Longo, da una parte mi eccito, e poi ti spiego, mi eccito, dal punto di vista giudiziario mi eccito, perché quando lui combatte in tribunale... Per l'amor di Dio... Fai. No, io giuro, io mi eccito quando sento il senatore Longo. Ti eccito, vabbè, senatore Longo, cosa vuole fare? Ognuno ha le sue ognuno ha le sue perversioni, che devo fare io? Non è colpa mia se questo si eccita. Un po' di calmante, lo so, infatti. Ecco, perché è molto calmo lui da quando combatte lì nell'Aragone, è così maschio proprio, maschio, dove lo vedi così maschio? Sì, ma anche combatte. Ecco, come, scusi, avvocato? Ditegli anche di cambiare push. Lo so, questa sera mi sa che ha fatto una dose eccessiva di qualcosa. No, ma ero tutto calmo, ho sentito la parola Longo e me lo sono già visto lì con la toga che combatte, estrae la spada dal fodero e combatte in modo masculo. Bello, bene, Longo. Senta, quando ha sentito... Allora, un'altra legge a persona facciamo. Oh, aspetta un attimo, scusi. No, ma chiediamo così. È andato, è partito così, non riesco a fermarlo. Che devo fare, avvocato Longo? No, è il suo collega, amica mia. No, ha ragione, lo devo sopportare io. Questo, guardi, le assicuro che ci vuole molta pazienza. Vero. Avvocato, quando ha sentito la Boccassini pronunciare la parola furbizia orientale, ecco, propria della signora Rubi, cosa ha pensato lei, avvocato? Ma sa, quando una persona parla appassionatamente per 6 ore, qualche lapsus può scappare. I lapsus non sono soltanto quelli verbali, sbagliare una parola per un'altra, sono anche forme di cosa? Proiezioni di pensieri che poi si traducono malamente. Ma secondo lei c'è un pizzico di che cosa? Di razzismo? Oppure semplicemente una cosa che è scappata così? Perché no, è una cosa che scappa così. Ripeto, quando si parla per molte ore, e lei lo sa bene, appassionatamente, può capitare a chiunque. Ma quell'altro passaggio sulle ragazze che invece vogliono procurarsi denaro facile? Ma forse era inutile una requisitoria per un processo che riguardava una concussione e un'altra fattispecie di reato che riguardava una sola persona. Sì. Ma la capacità di colorare il proprio intervento, la dottoressa Boccassini la possiede in grande misura e ha ritenuto di fare un grande... parlare di un grande contesto. Sì, tutto normale però, secondo lei, insomma, tutto abbastanza normale. Beh, sa, nei tribunali il concetto di normalità riferito alla requisitoria è un concetto molto relativo. Senta, ma secondo lei c'è una possibilità che a Milano Berlusconi venga assolto? Adesso, ovviamente non è che le faccio dare delle percentuali, però magari se vuole ce le dà, però a Milano, che è sempre stato un po' un tribunale certamente non favorevole a Berlusconi, c'è qualche possibilità che esca assolto Berlusconi? Io spero che ce ne sia, ovviamente. Però in cuor suo lei cosa pensa? Che davvero è possibile che a Milano esca fuori un Berlusconi assolto? Lo reputa una cosa impensabile per i giudici, per i tribunali? No, non la reputo impensabile, la reputo poco probabile. ma se dovessi arrendermi di fronte alle probabilità, no, certo. Pensare che sia poco probabile in riferimento all'atmosfera che sì. certamente si vive, deve essere compensata dalla convinzione che non ci sono gli estremi per giuridici per condannare una persona. Comunque la ritiene poco probabile, questa è la realtà. Sì, però siccome dobbiamo ancora intervenire sia l'avvocato Ghedini ed io, sì. Spero che dopo i nostri interventi questo gradiente di poca probabilità possa attraverso la nostra squisita capacità, come dice, eccitante capacità, come dice Parenzo. Il collega Parenzo, possa dare i suoi frutti. Senta avvocato, però, ma ecco, senatore, dimmi, dimmi. Voglio capire questo, senatore, avvocato, avvocato, senatore, senatore e avvocato. Ecco, proprio senatore, guardate, siete anche mal informati. No, è deputato, che cos'è lei? Deputato, comunque onorevole Longo che diciamo, Parenzo mattina... che ha detto senatore, ma mi ha mi ha fuorviato. No, dico che l'onorevole Longo che la mattina, ma a proposito, diciamo, scusi, avvocato di Berlusconi, dove trova il tempo di fare anche il deputato? Scusi, diciamo la verità, è una cosa residuale quella. Guardi, mi sorprenderò. Non solo faccio l'avvocato di Berlusconi, ma faccio l'avvocato anche per tanti altri clienti. No, lo so, questo lo so. Sì. Beh, dunque, dove trova il tempo per fare il deputato? Scusi, avvocato. Dormendo poco e ragionando in fretta, per esempio. Ah, dormendo poco e ragionando, cioè si può fare tutto, secondo lei? Essere impegnati in processi molto importanti? C'è una vecchia regola che dice ciascuno ci mette il tempo a fare qualcosa, esattamente quel tempo che ha a disposizione per farla. Quindi se vuoi far fare una cosa urgente da fare a una persona molto impegnata. L'ho mica scritta io, sono regole antichissime. Comunque lei riesce a fare tutto bene? Sì, io riesco a fare tutto. Non so se riesco a fare tutto bene. Vabbè, riesco a fare tutto decorosamente. Ma perché lei è in Parlamento? Si è mai dato una spiegazione a questa cosa? Sì, cioè, che bisogno c'è? Io sono in Parlamento perché mi piace fare il parlamentare. Le piace? Questo mi pare assorbente. Poi, tra l'altro, sì. Come recondito pensiero, posso pensare anche di avere, come vi ho già detto, qualche capacità. No, vabbè, quello nessuno la nega. Ma qualcuno disse una volta, il senatore Dell'Utri, a noi ci disse, io sono in Parlamento per legittima difesa. Vabbè, ma lui era un imputato. Lui era un imputato, sì, condannato. Cioè, non è il suo caso, comunque. No, io non sono in Cioè, si diverte proprio. Per legittima difesa, io non ho nulla da difendere. Non ho scheletri nell'armadio, non ho neanche qualche risca di pesce nei cassetti, se per quello, ho una vita banale, quindi faccio l'avvocato perché mi piace e il parlamentare perché mi piace e qualcuno crede nelle mie, ha creduto nelle mie capacità. Parenzo? Ecco, io voglio capire questo, sì. Onorevole. Voglio con pacatezza capire semplicemente in un momento questo. Di pausa dall'effetto delle droghe. Sì, le manifestazioni davanti al Palazzo di Giustizia. Ma è vecchia sta roba, è vecchia. No, ma vecchia, voglio capire se creano dei problemi anche al collegio difensivo di Berlusconi, cioè non mettono in buona luce, diciamo, anche quel clima di Milano, queste manifestazioni, non vi aiutano, cioè non è che lei per ogni processo che fa, tolto Berlusconi, c'ha la clac fuori dal Palazzo di Giustizia. Avanti. Sì, no, questo è vero, ma qual è la domanda che volevo? Non si è capito la domanda. Se mi crea dei problemi... Io in quella manifestazione non c'ero perché invece di essere fuori ero dentro, con Ghedini in toga. Quindi, ma le manifestazioni anche come quella di Brescia danneggiano un po' la difesa di Berlusconi o no? Sì. La difesa tecnica, dico. No, la difesa tecnica non la tocca. Il clima, creano un clima ostile. Il clima. No, ma guardi, no. Fermi tutti. Sì. Peggiorare il clima che subisce Berlusconi a Milano, sì, con qualsiasi iniziativa di manifestazione a Brescia piuttosto che sui gradini, non si può perché peggio di così non si può. No, sì, credo che abbia raggiunto, come direbbe il suo collega, il climax, punto più alto. Amico, nonché avvocato di Berlusconi, cioè il significato dell'importanza della pubblicità, torniamo tra un attimo con l'avvocato Piero Longo, che è avvocato di Berlusconi, nonché, come sapete, deputato e non senatore. Com'è che ti è uscito senatore, Parenzo? Io non capisco. Perché è stato senatore. Perché non leggi, non ti informi, non ti aggiorni, pubblicità. No, vi prego, voi siete delle persone certamente intelligenti, non sempre intelligenti, ma provate ad essere intelligenti. Ma voi ci fate uno sforzo, va bene, no? Siamo come lei, siamo ancora qui. Solo per disturbare. siamo qui, 800 24 00 24. Davide Parenzo in collegamento da Roma, avvocato nonché deputato del PDL Piero Longo. Avvocato, ma la Boccasini è un po' ossessionata dal sesso, secondo lei? Non credo proprio. No, No. È una personalità appassionata senz'altro, ma non ho ragione. Appassionata? Temperamento è appassionato. La stima lei? Bello era anche Parenzo quando mi dice che si eccita quando mi sente, sarà un atteggiamento appassionato. Ma la stima lei? Ha una grande capacità di indagine, sì. Raccoglie centinaia di migliaia di dati, sì. Poi l'elaborazione di questi dati viene operata attraverso schemi mentali che mi sono estranei. Però ma lei fa il pubblico ministero, non, quindi è anche giusto che io non la capisca. Però lei riconosce una grande capacità di indagine da parte della Boccasini. Sì, una grande capacità di indagine, una grande capacità di organizzare, di far lavorare la polizia, però poi l'elaborazione dei dati... Vabbè, lei ovviamente non è d'accordo con questo tipo di elaborazione, però dal punto di vista professionale la stima. Io stimo sempre i miei avversari, perché sì. Che gusto ci sarebbe vincere un processo, per esempio, con avversari di carta levatura e nel contempo perdere un processo con un avversario di alta levatura è una... quantomeno un attenuante. Beh, questo è interessante, cioè perdere con la Boccasini alla fine ci può stare. Prego? Perdere con la Boccasini alla fine ci può stare, dice lei. Non perderemo con la Boccasini. Vabbè, se dovesse perdere con la Boccasini ci si può stare di fronte alla... No, non si perde con la dottoressa Boccasini, perché vede, è un procuratore di primo grado, poi c'è il grado di appello, certo, e poi certo. C'è il vecchio problema, una condanna c'è soltanto quando ha detto la parola definitiva la Suprema Corte di Cassazione. Oggi Marina Berlusconi ha detto che i magistrati sono stati morbosi, in un'intervista a Panorama che verrà a sarà in edicola domani, sì. Ha detto che i magistrati hanno vivisezionato in modo morboso e vergognoso la vita di mio padre. Lei, secondo lei i magistrati sono stati morbosi da questo punto di vista? È d'accordo con Marina Berlusconi? Il giudizio della figlia dell'imputato è un giudizio che si può condividere proprio quando si pensa che è la figlia dell'imputato. Io non credo che ci sia nulla di morboso in quello che facciamo, non so esattamente quello che fa Parenzo, ma penso che nemmeno nella sua vita ci sia qualcosa di morboso, perché il concetto di morboso è così, una sì. pretende un modello di valutazione che mi è strano. Però lei ammette che è fissata con Berlusconi, la Boccasini, cioè ha un pregiudizio oppure semplicemente ha una capacità di indagine? Ha una passione per Berlusconi. Ah, una passione, di che tipo? Sì, che tipo? Di tipo inquisitorio. Ah, una passione inquisitoria. Sì, non c'è dubbio. Per Berlusconi in particolare. Ma perché lo odia politicamente, perché non lo sopporta, lo vuole fare fuori, lo vorrebbe morto? Per quale motivo c'è questa passione? Perché dà pubblicità alla cosa? Si no, è fatto un'idea? No, io sono convinto che lei abbia un eccesso di buona fede. Un eccesso di buona fede? Pensare, l'eccesso di buona fede è un ossimoro. Poi dopo Parenzo le spiegherà cosa vuol dire. Lo so, Parenzo me lo spiega, sono ignorante, avvocato. È una cuta follia. Sono certo. Un uomo del popolo, sono un uomo no, del popolo. No. Naturalmente lo dico a lei per spottere Parenzo. Dunque me lo spieghi però, perché sì, lo spieghi certo. Anche a chi ci ascolta soprattutto magari. Dunque l'eccesso di buona fede porta a una forma di manicheismo per cui il mondo si divide in buoni e cattivi, in nero e sì. Bianco, senza sì. Sfumature. Ecco, io non credo che la certa parte della magistratura milanese sia provvista di capacità di sfumature. Nello stesso tempo, se non si è capaci di sfumature, si è anche in carenza di equilibrio. Bene. Ma questo quanti magistrati secondo lei? Molti magistrati della Procura di Milano? No. Alcuni? Una parte numericamente assolutamente minoritaria, ma molto attiva. Senta, ma lei andrebbe, se dovesse scegliere di andare a cena fuori, con Boccasini o con Woodcock? Ecco, guardi, io andrei a cena con Woodstock. Ah, con Woodcock invece che con la Boccasini? Sì. Come mai? Perché non lo conosco. Ah, vabbè, ci non sarà non pure... Non lo conosco di persona, mentre la dottoressa Boccasini non l'ho mai frequentata, se non nelle aule, ma da meno 15 anni, invece il motociclista non lo conosco, quindi non... Il motociclista eccezionale, il motociclista, beh, sarebbe curioso, beh, di... Beh, non è mica colpa mia se vai in motociclista, no, beh, però... è un'invidia da parte mia. Ma i giudici, per esempio, che hanno, che hanno emesso la sentenza sul divorzio, anche loro hanno un pregiudizio, secondo lei? Quella, no, guardi, io, una sentenza tremenda, quella, no, là. Della, della questione civilistica non mi sono interessato, non conosco gli atti, non conosco le motivazioni, proprio non, non posso dare... Quanti soldi ha guadagnato dalla difesa di Berlusconi in tutti questi anni? Si è fatto un conto? Prego? Quanti soldi ha guadagnato? Allora, la prima risposta sono fatti miei. La seconda risposta è, adesso se volete farvi i fatti miei, vi posso dire una cosa che io ho già detto. Io guadagnavo, prima di conoscere Berlusconi, in lire, esattamente quello che, un po' quello che guadagno adesso in euro, un po' meno. Cioè, quindi la... non c'è niente da fare. Perché ha perso dei clienti, dice lei. No, perché certamente no, non ho perso dei clienti, ho dovuto delegare e associare dei colleghi bravissimi del mio studio per poter sostenere una difesa adeguata di tutti. Cioè, quindi, ha perso dei soldi da quando difende Berlusconi, in sostanza? No, non ho perso dei soldi, ma non ne ho, non ho, non mi sono arricchito, perché quello che guadagnavo prima guadagno anche adesso. Ci sono le mie dichiarazioni di reddito. No, per carità, ma nessuno diceva il contrario. No, ma io dico, io incassavo 1 miliardo di lire prima di conoscere Berlusconi. Adesso incasso, faccio una denuncia di reddito che è sui 500.000 euro. Come quella di Parenzo, no? Davide, giusto? Come quella tua? Non so, è uguale. No, ma voglio chiedere all'avvocato onorevole, anche questo è un ossimoro ovviamente. No, guardi, anche questo è una forma di ingiuria indiretta, ma io rimango indifferente. No, ma perché mi... No, Parenzo... Furbizia padovana, furbizia padovana, non orientale. Lei non può pensare che, siccome io ho 69 anni, sia rincoglionito, come sa. No, ma non lo penso. Se fa una battuta, io la capisco soltanto quando abbiamo finito l'intervista. Capito? No, dico... no, per dire, insomma. No, risponde subito, no, mica, ma... mica è rincoglionito. Ma non l'ho mai pensato, né detto, anzi, vabbè, voglio capire, allora... questo, però, dall'avvocato. Non resiste alla battuta, onorevole avvocato, uno sì, stimolo. Sempre così, sempre come così. Sì, è fatto così. È fatto come così. Se io facessi la battuta, ma... la battuta dell'intervistatore della, della radio... intelligente è un ossimoro, ma che sarebbe senta Parenzo, sì. Posso chiedo a Parenzo se posso mandargli una serie di battute, come così le scrivo, gli do grazie. Ma lo sa che adesso lavorerà per Rai 3? Magari. No, ma vero, lavorerà per Rai 3, ti faccio gli auguri. Tanti auguri. È una rete, no, ma come? È una rete molto vicina a Berlusconi, tra l'altro, sì. Cioè, la Rai 3, no? Ma senz'altro, anzi, tutti i nostri amici sono in Rai 3. Ecco, uccido uno che ti sia minimamente contrario. Senta, ma l'ipotesi di Berlusconi interdetto, no, dai pubblici uffici, cosa, un attimo, un'altra cosa, se Berlusconi fosse interdetto dai pubblici uffici, secondo lei il governo cadrebbe un secondo dopo? Ma guardi che per fare, che dare interdizione dei pubblici uffici bisogna che sia passi in giudicato una sentenza. Eh beh, quella su media, sette diritti, può passare in giudicato anche tra 6-7 mesi, diciamo, no? Sì. Appunto, dico, ma in questa ipotesi qua, secondo lei il governo cadrebbe un secondo dopo? Forse cadrebbe un secondo prima. Ah, un secondo prima? Cioè l'interdizione dei pubblici uffici sarebbe la pietra tombale su questo governo. Ma non è mica detto, perché sa poi... se lei dice un secondo prima... Ha delle capacità politiche eccezionali. Nel bene o nel male, a secondo i punti di vista, i detrattori, invece chi come il sottoscritto lo stima... potrebbe riuscire a cavalcare un'interdizione dei pubblici uffici e riuscire dal Parlamento e rimanere capo di una grande coalizione. No, quello è vero, però il governo, lei dice, cadrebbe un secondo primo. Ma no, ma no, ma forse no. Ma come forse no? Sì o no? Se lei dice un secondo primo... No, ci ho ripensato, guardi. Ci ho ripensato, vabbè. No, se lo... Bisognerebbe far decidere Berlusconi. Ma quello infatti è la sua idea questa qua, mica quella di Berlusconi. Quella Berlusconi dovrebbe decidere. Secondo Longo dice che cadrebbe un secondo prima. Secondo me non si dovrà neanche fare questo governo, ma... In che senso, scusi, professor Longo? Perché non si doveva fare? Posso avere un'opinione diversa? Come no? Figuriamoci. Allora, le posso dire che io non sono felicissimo di questo accordo di governo. Perché? Perché sono mondi diversi, perché sarà difficile, ma viene giustificato solo per una sorta di stato di necessità. Nello stato di necessità, come lei mi insegna e Parenzo sarà d'accordo, è una camicia stretta. Secondo lei sarà una fregatura per Berlusconi questo governo, questo stato di necessità, questa camicia stretta? No, perché io non è vero, non è detto che sia una fregatura. Che ne so, la riforma della giustizia, alcune cose della giustizia, per esempio, secondo me non si faranno mai, cioè diciamoci la verità, cioè, essendo mondi diversi, non si faranno mai, al di là di quello che si dice oggi, l'intercettazione. Guardi, si faranno la riforma della giustizia, non la farà nel PDL né il PD. Lo farà tra qualche lustro, sì, una nuova struttura democraticamente eletta, la quale purtroppo farà interventi sulla giustizia e nei confronti di magistrati di grande portata, perché sarà riabilitata la politica di fronte alla funzione della magistratura. Ma chi lo farà sta riforma? Ma da destra, da sinistra, da centro, non lo so. Sarà fatta dalle persone, probabilmente dal nome sconosciuto, quelle che verranno fuori all'ultimo momento, democraticamente eletti, e si renderanno conto che è meglio avere una democrazia parlamentare che qualche volta incespica, piuttosto che un potere assoluto dei magistrati, che sono una volta vincitori di concorso, non possono essere spostati in nessuna maniera. Beh, questa è una previsione, che ne so, la prossima generazione, dice lei, un'altra la prossima generazione, guardi, non questa. Io non sono contento di questa soluzione, ma questa sarà la soluzione, storicamente è avvenuto così. Però scusi, lei quando dice di non essere felicissimo per questo governo, perché dice sono mondi troppo diversi, non si possono conciliare? Ma posso non avere simpatie per un governo? No, ma certo, perché non ha simpatie, però è curiosa la cosa. Cioè, non ho simpatie per un governo il quale i suoi vari esponenti, anche ancora presenti, ha tentato per molte settimane di fare un governo con forze politiche che definire democratiche si deve, perché non si può fare diversamente, ma che hanno suscitato in me qualche perplessità. Cioè, che sarebbe Grillo? A proposito, Grillo dice che Berlusconi deve andare in galera. No, Grillo, non lo chiamo Grillo. Il signor Grillo. Come lo chiama lei? Quel signore, io non ho confidenza. Quel signore, cioè non lo pronuncia nemmeno il nome. Quel signore, non lo dico quel signore o quell'individuo. Ah, il signor Grillo. Il signor Grillo. Che vuole Berlusconi in galera, no? Ha sentito, ha letto. Certo, no? Lui vuole Berlusconi, vuole in galera molte persone. Sì, sì. Sì, non soltanto, vuole in galera un po' tutti, l'ha detto. Ma non è, non è un movimento democratico secondo lei questo qua? No, non si può sul definire. Il concetto di movimento democratico si può discutere a lungo, ma mi sembra che non abbiamo sufficiente tempo. Secondo me è abbastanza democratico. Sai, di quella democrazia così che si faceva una volta negli arenghi, per cui alzavano la mano, borbottavano, facevano cose. Per cui non è vera democrazia, diciamo. No, ma perché non è vera democrazia? Perché, per esempio, se uno non c'ha un computer, non ce l'ha, non vuole usarlo, non può partecipare. Non può partecipare. Ma che roba è? Una roba per bici, una roba da. Dimmi, ma non ho capito, ma guardi che non è mica obbligatorio avere un computer e doverlo adoperare e saperlo adoperare. Invece questa sì. I grillini, come vengono chiamati, con un'espressione assolutamente poco corretta, cioè i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che rappresenta cinque volontà politiche, sono legati con un filo tremendo a questa struttura, cioè il web, la rete. Una roba tremenda, dice lei, Non so se sia una roba tremenda, però mi sembra molto rappresentativa. Parenzo, che c'è? Lei immagina no, che voglio siano... chiedere... Certamente... Volevo chiedere... Che c'è? Immagina che? Immagina che tutti debbano stare attaccati al computer di varie stazioni sociali, culturali, l'operaio della Finsider, piuttosto che fuori. Per cui per partecipare democraticamente deve entrare... In questi blog. Parenzo, che dici? No, volevo chiedere all'onorevole avvocato Longo una cosa che credo fondamentale, perché è molto seria. Il signor Chiesa Soprani ieri alla Zanzara ha detto una cosa che volevamo verificare con lei. Ma che ha detto? Che Come? Signor Chiesa Soprani? Sì, sì, che ha detto? Ma che ne sai di Chiesa Soprani? Si rivolgeva a Ghedini, non a Longo, Chiesa Soprani. Vabbè, no, però attento, ha detto alcuni avvocati collegati con lo studio di Ghedini mi offrirono 2500 euro al mese per tacere. Ecco, tutti questi soldi, ma al di là di Chiesa Soprani, tutti questi soldi che oggi il Fatto pubblica addirittura... Me l'hanno riferito questo pomeriggio. Io credo che dovrà rispondere... alla magistratura. Ma se... per il mio carattere dovrebbe rispondere a me direttamente, anche se non mi ha citato, perché cioè, questa insinuazione, però io ho un pessimo carattere come noto, però c'è gente che cosa vuole, apre la bocca e ci dà aria. Scusi, ma secondo lei perché Berlusconi dà tutti questi soldi alle ragazze, cosiddetto olgettine? Guardi, Berlusconi distribuisce i suoi soldi secondo la sua generosità e la sua capacità economica. Tra l'altro adesso abbiamo una dimostrazione molto plateale, sì, che la magistratura ha detto che lui deve poter dare 3 milioni di euro al mese, sì, alla propria ex consorte. Sì. Se lei fa il calcolo di quelle che possono essere state considerate le capacità economiche da parte di giudici milanesi in civile per dare questa cifra, può pensare che Berlusconi dare 1000 euro è come per me darne uno. Ah, cioè lei dice che per Berlusconi dare 2500 cioè Berlusconi è molto generoso. Cioè per Berlusconi dare 2500 euro al mese è come dare un euro, forse nemmeno. Rispetto a quello che guadagniamo lei ed io? Sì. Più o meno questo, sì. Facciamo, no, facciamo 12 euro. 12 euro, cioè 2500, sono nulla per lui 2500 euro al mese. No, veramente nulla. Nulla. Ma e di questi 4 milioni e mezzo che ha dato a Karima El Makroub? No, guardi, intanto non dica fesseria, perché quelle... Che avrebbe, ho detto, avrebbe. Ma quali che avrebbe? Questo, avrebbe... ha detto, ho sentito la Boccassini, sì, o basta. Ah, beh, se l'ha detto la Boccassini... E infatti ho detto avrebbe no, dato. No, avrebbe, che la Boccassini ha detto che avrebbe promesso, per la verità, ma non che avrebbe dato, perché se l'avesse dato l'avrebbero trovati. Avrebbe... anche voi... Dobbiamo... D'altra parte, provocatori siete, provocatori rimanete. E comunque tutti questi soldi dati, secondo lei, se è solo generosità, non è coso, non è per farle tacere, per non farle parlare. Allora lei, che dovrebbe sa certamente le cose, sì, nel processo si è appurato che, sì, lui dava del denaro a delle persone che certamente non hanno avuto da lui né, sì, richieste di prestazioni sessuali, né tantomeno le hanno date. E quindi questo teorema fallisce su questo. Ma come mai? Beh, ovviamente secondo la Boccassini invece queste... No, anche scusi, secondo la Boccassini, perché ci sono delle ragazze che hanno detto, beh, io ho avuto del denaro, poi dopo ho detto, ma perché ho avuto questo denaro, lo restituisco, ma no, papà, me lo tengo. O anche parlando col fidanzato, ma non hanno nemmeno mai accennato al fatto di richieste di prestazioni. Come sessuali. Solo generosità, dice lei. Ma come mai? Domanda finale, Parenzo. No, non voglio entrare nella guerra giudiziaria con l'avvocato, perché... Ma Coppi subentrerà anche nella vicenda Ruby, Coppi, il signor Coppi? Intanto il professor Coppi. Professore avvocato Coppi, scusi. Il professore avvocato Coppi, sì, no, il signor Coppi. Anche nella vicenda Ruby o solo... Ma non è detto che subentri in nessuna vicenda il... Beh, c'è stato un comunicato suo di Ghedini, sì, mi sembra pochi giorni fa, o no? O sbaglio? Ma l'avete letto oppure il comunicato che scriviamo? Ma non lo so, non mi ricordo, mi sono appuntato una cosa così, avvocato. Abbiamo detto che ove ci fosse l'occasione... Ove ci fosse bisogno, d'accordo. Ove ci fosse l'occasione di avere un contributo, sì, da un grande professionista... Per cui non è detto ancora? No. Non è detto, dunque sicuramente non nella vicenda Ruby? No, proprio, guardi, in nessuna vicenda per la vita. In nessuna vicenda? Lei quante è possibile? Non subentrerà? Cioè no, non subentrerà, non vi affiancherà? No, non vi affiancherà. No, guardi, gli imputati, le persone interessate, si scelgono gli avvocati. Sì. Se a me chiedere, come è già successo molte volte nella mia, sì, carriera professionale, senta, vorrei affiancarle questo collega. Sì, sì. Se questo collega mi è simpatico, nel senso profondo nell'etimo, perché sì, lo stimo, certo, e certo, mi stimo le capacità, io sono ben contento di associarmi. Ma Coppi le sta simpatico? Coppi mi sta molto simpatico perché è un ottimo avvocato, è un ottimo professore. E dunque è possibile? E dunque se il dottor Berlusconi, l'onorevole Berlusconi, sì, senatore, ci dicesse, sì, ma mi piacerebbe affiancare Tizio Caio, e in questo caso l'avvocato Coppi? Professor Coppi, io non avrei assolutamente... E gliel'ha chiesto? Il contrario, non ancora. Non ancora. Sarei felice. Va bene, grazie, Parenzo. Prego, anche a voi. Mi saluti tanto, Parenzo. La pistola ce l'ha ancora? Sì, ce l'ho qui. Oggi porto una Ruger LCR fabbricata in America, sì. Ma veramente ce l'ha dietro? Ma come la porta? Come la porto? Certo che la porto, me l'ho rinnovato il porto d'armi perché non devo portarla. Ma non ho capito, ma ce l'ha dietro? Adesso ce l'ha dietro? No, no, ce l'ho davanti agli occhi. Davanti agli occhi? Dietro. Ma dove si trova lei? A Padova? Ma anche alla camera la porta lei. No, alla camera no, alla camera non si può. Non ah, dai, Parenzo, io ho già detto che non si può portare la pistola neanche in treno. Di tribunale? No, non si può, ma neanche in treno non si può. No, no. E neanche in una balera non si può, neanche al cinema si può portare una. Non si può portare l'arma, se si ha, anche se si ha il porto d'armi, dove c'è concorso di persone. A presto! Arrivederci, buon lavoro, traffico. Mi raccomando, che dobbiamo fare? Vi vedo un po' sottotono. No, ma che sottotono? No, ma è un'impressione. No, è solo un'impressione. Siete diventati buoni. Ma siete... che buoni, abbiamo... ma sì. Che buoni. Ma sì, l'atmosfera nuova, se il Papa Francesco, siete diventati tutti buoni. Ma contro lei, contro Cabobo, l'avrebbe usata la pistola? Contro? Contro quel ghanese che ha preso a picconate tre persone. Se esattamente, dopo che avessi capito cosa stava facendo. Cioè, gli avrebbe sparato? Gli avrei sparato le gambe, sì, certo, perché no? No, e che ne so, è una domanda. Perché lei non l'avrebbe fatto, si sarebbe dato a nascondere da qualche parte. No, ma anch'io, parte, io guardi, ma guardi, cioè... Guardi perché c'è un obbligo di intervenire. Ma perché ha le gambe, scusi, perché ha le gambe, mi spieghi? Perché basta sparargli le gambe, perché finisca di dare picconate in testa alla gente. Beh, magari non si ferma e bisogna... E allora, se non per, si ferma... Per essere più sicuri, per essere più sicuri... Spariamo un'altra volta le gambe, se proprio non si ferma, gli spariamo addosso. Cioè, lei non se la sarebbe fatto sotto, non se la sarebbe fatto sotto per vedere questo qua, e avrebbe avuto la freddezza, secondo lei, di tirare fuori la pistola e sparare? Ma scusi, ma lei... E che ne so? Di stare parlando con, non so, con Parenzo. A presto, grazie. Prego, arrivederci. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Siamo qui la Zanzara 800240024. Raffaele D'Avellino, buonasera. Dunque, ti comunico? Sì, dimmi, Parenzo, dimmi, che c'è? Che mi ha chiamato poco fa l'avvocato Taormina. Sì, sì, lo so. L'avvocato professore, avvocato professore Taormina. Taormina. Professor Taormina. Mi ha detto chiamami subito, che ho delle cose da comunicarvi. Va bene, dai, Raffaele D'Avellino, adesso vediamo. Raffaele, dica. Salve, ma che c'ha il cane? Che c'ha il cane lei là vicino, Raffaele? Può capitare di passare anche da un cane? No, per curiosità, se c'aveva un cane lei oppure passava accanto a un cane, che ne so. Sì, lo passavo, l'avete sempre passato davanti a un cane. Vabbè, allora? No, dicevo, ma lei si è risentita dell'ultima intervista che ha fatto in mio fede dopo la trasmissione? Oh, Raffaele, che vuole? Avanti, non ho capito, lei è, non ho capito bene, Raffaele, dica. No, dicevo, un attimo solo, tanto... No, dicevo, siete risentite le interviste che ha fatto Emilio Fede, le ultime due interviste, dopo la trasmissione? Allora? Vabbè, potrebbe essere istruttivo. Cioè, ma le pare, sono domande di interesse generale quelle che le fa Emilio Fede, a parte il personaggio. Sì. Raffaele, ma ha telefonato, ha perso tempo per dire che non le è piaciuta l'intervista a Fede, che dovevamo domandare cose diverse, no, non ho capito bene. Ma tempo sprecato, poi se perdo tempo, questo mi scusi, lo decido io se tempo perso. No, ma io le do un suggerimento, cioè invece di perdere tempo e chiamare per dire scusi, poteva fare domande diverse a Fede, lo sprechi in un altro modo, facendo una telefonata, portando a passeggio il cane, stando tranquillo. Potrebbe essere interessato alla trasmissione. D'accordo, allora non ho capito, cosa dice, non ho capito, non dovevamo fare domande... Dicevo, io mi ricordo l'ultima intervista, da quanto tempo non gioca, da quanto tempo non fa sesso, ci mancava solo quando ce l'allungo e poi ripeto. Ogni tanto facciamo queste domande, le dispiace? Ma mi dispiace per lei, per la verità. Mi dispiace per me, mi lasci dispiace, eventualmente lasci che mi dispiace io, no? Perché perché lei si dispiace per me? Al limite... Forse lei da consigli, potevo darle un consiglio, nel senso il consiglio qual è? Io lo ricevo volentieri questo. Cercare di essere più interessante. Più interessante, se per lei non sono interessante, mi dispiace, c'è una possibilità che è la solita, uno fa così, tac, e cambia radio. Andrea da Pesaro, buonasera. Io avrei voluto... discutere con Parenzo e non con lei, di cui condivido la posizione su quella cosa tremenda del picconatore che a Milano ha picconato. Sì. E l'altra sera, tornando a casa, ieri l'altro, mi sembrava che Parenzo avesse dato una lettura che per me e anche i miei passeggeri in macchina era inaccettabile. Cioè? E cioè che si sta facendo della strumentalizzazione razzista sul fatto che questo qui è nero e che bisogna cacciarli fuori perché sono neri, che siamo razzisti, eccetera. La questione è un'altra, che io ho due figli, una di 21 anni e una di 16, e se una mattina mi chiamano e mi dicono che uno dei due è morto con la testa spaccata da uno che era in Italia, che non ci doveva essere, che era stato espulso, che era un delinquente, e c'è sempre qualche buonismo cattocomunista per cui c'è qualcuno che si fa avanti per reiterare la richiesta negata di asilo. Io penso che bisogna essere seri e non bisogna fare dello spirito come ha fatto Parenzo l'altra sera. Ma Parenzo può fare quello che vuole, anche spirito può fare. A parte che non ha fatto, nessuno, a parte che in questo caso, ma non ha fatto nessuno spirito, ha detto la sua. Io l'ho contestato, punto e basta. Non ha fatto nessuna battuta. Di che sta parlando? Ha detto la sua. Io ho capito. Siccome non sono ubriaco, mi ricordo molto bene. Ma non ha fatto nessuna battuta. Ha detto semplicemente quello che pensa. Non ha fatto nessun tipo di ironia. Beh, certo che è legittimo, no? Che lui dica quello che pensa. Sì, ma non ha fatto battute, non ha fatto alcuna ironia, anzi, però aveva un atteggiamento un po' spiritoso che era fuori dalle righe. Ma io non ho sentito questo atteggiamento spiritoso, ha semplicemente detto quello che pensa. Io sono totalmente contrario. E allora siamo in due. E vabbè, d'accordo, punto e basta, però ci si confronta anche in maniera vigorosa. Dopodiché non ha fatto nessuna ironia, non è che si è messo a scherzare su tre morti italiani o tre morti. Ma non è che il fatto che fossero italiani o di qualche altra nazionalità, ma per dire, o che l'assassino fosse nero albanese. Ha capito? No, il problema è che è ora di diventare seri e meno tolleranti. Vabbè. Filippo da Milano, non ha capito niente. Filippo da Milano, buonasera. Buonasera ragazzi, come state? Tutto bene? Bene, bene, dica. Niente, no, però sono contento che quando trovate qualcuno che veramente c'ha le palle, tutte e due, specialmente Pastronzio lì, praticamente state zitti a cuccia. A parlare con l'avvocato, il signor Pastronzio, non era neanche capace di fargli una domanda, come mai? Guardi, parla con la gente comune, con i poveri disgraziati come noi altri. Il signor povero disgraziato se l'è dato da solo, povero disgraziato. Filippo, dai, lei se l'è dato da solo. Guardi che quando intervistiamo l'avvocato Longo o il deputato Longo o qualsiasi altra persona, vogliamo tirare fuori da queste persone delle notizie. Dunque, qual è l'argomento di discussione? Scusi, diceva, Filippo. Qualsiasi cosa lui diceva, non eravate in grado di controbattere. Ma quale controbattere cosa? Ma cosa? Non siamo mica al processo qui. Ma di che sta parlando? Comunque, per quanto riguarda, concordo con l'avvocato, che per quanto riguarda il signore lì che ha preso a picconate, chiamiamolo signore, sì, aveva ragione l'avvocato, io gli sparerei in testa. No, veramente lui ha detto alle gambe, comunque. Io invece gli sparerei in testa. Benissimo, non è benissimo. E lei è un animale, allora? Io sono un animale, però sono del parere che occhio per occhio e dente per dente, vede, perché così non si può andare più avanti. Lei ronza un po' di qua, poi ronza un po' di là, e tu lo sai che prima o poi potrà colpire. Non rilassarti mai, lei non dà tregua, sai, finché non può. Oh, caro Parenzo, oggi Sabina Began, la nostra amica Sabina Began, ha detto, anzi l'avvocato di Sabina Began, ha detto che lei non portava escort a Berlusconi, ma perché si sarebbe fatta concorrenza da sola. Si sarebbe fatta concorrenza da sola, da sola. Vogliamo ricordare qualche performance della Began alla Zanzara? Come no? E poi se ne va. Sono andata da lui, gli ho ribaciati i piedi, gli ho tolto le scalzine e profumavo tantissimo. Poi ho fatto una cosa che non ho mai fatto, cioè? In vita mia fino adesso. Cioè? No, non dica. Io ho baciato lì sotto le scelle dopo lui che ha lavorato che tutto il giorno, ti giuro. Sai che cosa? Profumavano di lui. Devo dire che Berlusconi è un uomo di Dio, che lui ha scelto, ha detto dai, mettiamolo in questo mondo per fare delle cose speciali. Io ho amato veramente l'unico solo uomo che io ho amato è solo lui, cioè veramente ho amato lui in questa maniera come ho amato lui, non ho amato proprio nessuno. Incredibile. Sì, perché comunque è andata oltretutto, cioè ho sofferto tanto per questo ha uomo. Ha sofferto anche per lui? Beh, sì, è normale. Perché? Beh, perché quando uno ama soffre. E com'è fare all'amore con Berlusconi? È indimenticabile, dai. Lui è proprio Superman. La Zanzara 800 24 00 24. Allora Filippo, che vuole? No, niente, solo questo. Volevo parlare col signor Pastronzio. Come mai che non si fa sentire? Come mai? Ma è qua, non si può. Come mai? Pastronzio, come Pastronzio mai, caro? Caro, ma sì, perché c'è che Pastronzio. Eccolo qua, simpatico. Pastronzio diceva, giusto? Pastronzio, sì, ma così ha detto. Onzio, ci mette anche la I finale. finale, sì. Dai, senta, qua... lei possiede dei beni immobili? Ma ancora con queste querele, basta, su. Oh, ma per cortesia, ma lei adesso si è messo in testa di querelare tutti. Vuole ammazzare lei... il mondo, vuole ammazzare. Lei possiede beni immobili, le chiedo? Oddio, ma purtroppo, perché? Purtroppo sono disoccupato, nulla tenente, protestato al massimo. Un casino, guardi, meno lo so chi sta. Scusi, perché è così disperato lei, Filippo? Capisco il suo stato, poverino. Ma disperato, la parola disperato, disperati sinceramente c'è gente che soffre disperata. Vabbè, ma che fa nella vita? Anche lei non è messo proprio ma benissimo. Che fa nella vita, scusi, disgraziato? Io, saltuariamente lavoro, però non ho un lavoro fisso. Ma che lavoro fa, lo spacciatore, che fa? No, no. Trasporti. Ah, trasporti, adesso è sul camion lei. È sul camion. Sì, sto guidando. Mitici, sì. Gli autotrasportatori di tutta Italia, chiamateci. Prendetevela comparenza, attaccate Parenzo. Ma no, comunque volevo farvi complimenti perché comunque sia, voi siete uno sfogo, E poi la gente, giustamente come dite voi, la gente che non mi vuole ascoltare, schiaccia un bottone e cambia canale. Invece è bello anche condividere espressioni diverse con persone che la pensano in modo diverso, che ti insultano, che... Va bene, bravo Filippo, grazie. Federico da Livorno, grande, Filippo da Milano. Tribunale. Ci vediamo in tribunale, ha detto Parenzo. No, dico sommessamente, se magari mi evita di chiamarmi pastronzo è meglio, ma comunque volevo fare un invito a questo autotrasportatore acutissimo, sì. Di telefonare tra le 18 e le 18:30 alla trasmissione Focus Economia e a ragionare un Forum. Po' perché ma non ci sono gli ascoltatori là, cioè nel senso che non chiamano gli ascoltatori, no, che non ci sono. Dovrebbero chiamare, che qualche genio, non so chi, ha detto che quando io dico non ci sono gli ascoltatori e sembro dire Barisoni non ha ascoltatori, capisci che geni che ci sono all'ascolto qui. Federico da Livorno, ma è degli imbecilli. Federico da Livorno, buonasera. Ciao, buonasera. Dica. Pastruzio bello, Pastruzio. Pastruzio non è male, su, dai. È stata bella, dai. Allora? No, niente. Sì. Volevo intervenire ho sentito prima l'intervento dell'avvocato Longo. E volevo intervenire dicendo il mio parere di Rubi, su questa storia delle puttane, di Berlusconi. Ma a me mi sembra un po' una barzelletta. A parte che la signora Boccassini, secondo me, io ce l'ho un parere mio, una mia teoria. Secondo me lei non l'ha avuto da Berlusconi da quando erano giovani, perché sono concittadini, giusto? Sono milanesi tutti e due. Secondo me non gliel'ha dato e lei questa cosa le girano i coglioni, perché siccome capisco anche perché non gliel'ha dato, perché insomma è bruttina da vedere. Però anche Berlusconi non è che sia questa bellezza. No, però, mi sembra una teoria potere e con tanti soldi, capito? Quindi si può permettere, giustamente, perché chi è lo scemo che se gli viene lì una bimba di 20 anni, 19, 30 che sia, chi è che non ce la fa? Che ne so, Federico, magari quando uno fa il presidente del consiglio qualche limite potrebbe darselo, no? Così di frequentazione, dico, ma non è il caso di Berlusconi, perché come sappiamo Berlusconi. Sì, ma è che loro vanno a vedere anche il passato, quello che hanno fatto le veline, le letterine, le microfonine. Insomma, vabbè, allora capisco, e no, niente, mi sembra un po' assurdo, perché io capisco anche lui che essendo un uomo di potere, pieno di soldi, si avvicinano alle donne, allora a queste donne che si avvicinano a lui cosa gli si fa se si processa lui? Ma che ne so, Federico, cioè non è che è necessario se uno... Poi non è che succede come lei descrive, cioè quelli si avvicinano e lui, cioè non c'è l'assalto, No, c'è l'assalto e come, ma lei basta guardare su internet, ma è normale, io conosco un sacco di persone con soldi, calciatori, gente che lavora in banca, conosco un bel po', Federico, quindi si avvicina. Andiamo a Vicenza, grazie, Ahmed, signor Ahmed da Vicenza, buonasera. Buonasera a lei. Vada. Io mi chiedo cosa sta succedendo tutti contro l'Avvocassini. Sembra che ce l'abbia sul personale contro Berlusconi. Non sta mica facendo il suo lavoro. Sì, anche ovviamente. Voglio dire, il suo lavoro pensavo fosse cercare di inchiodare la persona che lei ritiene colpevole con tutti i mezzi, insomma. Ma mi sembra che l'avvocato Longo l'abbia anche detto, cioè una persona, una grande capacità di indagine, eccetera, eccetera. Beh, ma ci mancherebbe che un avvocato si metta a dire il contrario di un pubblico ministero. Pensa già a Ferrara, ci pensa già altri personaggi, diciamo, a prenderla più sul banale, ridicolo. Sì, vabbè, poi? No, niente, è in riferimento a quello che diceva su Ruby il fatto dell'intelligenza orientale, quello penso fosse, diciamo, quasi un voler grattare al razzismo verso i giudici, anche se non può pensare queste cose. Ho pensato semplicemente che magari voleva attirarsi le simpatie di una certa frangia, diciamo così. Cioè di chi? Possibile. Cioè di chi? Insinuando un qualche lieve, ma molto lieve, diciamo, cerchiamo di essere chiari. Qualche frase sul razzismo, cercando di insinuare che è così perché lei è marocchina. Secondo me semplicemente cercava di attirarsi delle simpatie. Ma di chi? Dei leghisti? La Bocca, la Boccasini? Ma vabbè, mi sembra una teoria. A livello in generale. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Una muchachita baila col ritmo bueno, non le importa. Grazie. La diretta. Suona il telefono della zanzara. Sai cos'è bello? Che dà soddisfazione, vuoi sapere? Cos'è? Che sono salito poco fa sul taxi. Come al solito, sì. E è bello sentirsi, cioè sali sul taxi e senti la zanzara. Beh, io sono Parenzo, sì, sali. Zara 1, grazie Zara 1, tutto bene. Grazie, perché è bello, dicevo al collega Cruciani. Viva Zara 1, viva Zara 1. Viva Zara, ma vuole dare un saluto a Cruciani? Cioè, sì, aspetta, ti passo l'altra tassista perché forse anche una... Ecco, lei sul caso Rubbia, lei pensa che Berlusconi sia colpevole, giusto? Zara 1, che dice Zara 1? Ecco, lei pensa che sia colpevole Berlusconi, vero? No, io non penso di... Ecco, ha detto che è colpevole Berlusconi, ha detto. Hai sentito? Io credo che questo paese convenga a tutti a uscire da questa palude che ci siamo messi. Azzeriamo dei conti anche seri, ma cerchiamo di essere intelligenti, di guardare avanti, sì. Diamo la possibilità al sì. nostro primo ministro di uscire, di trasformare questo paese verso il miglioramento. Va bene, sì, adesso non faccia l'ecumenico. 01, che pensa della vicenda Ruby? Berlusconi c'è stato a letto, sì o no, secondo lei? No, ha detto, cioè, lei pensa che Berlusconi sia stato a letto con Ruby, vero? Sì, lei mi diceva di sì. Io prima. Non lo so. Sì, ha detto di sì, mi sembra. Ma non ha detto di sì, chiaro. Ma che dici? Sì, sì. Ha detto, appena adesso ha detto, chiaramente sì, ha detto, mi pare, no? Passamelo un attimo, sì, passamelo un attimo. Io non lo so, aspetta che te lo passo, che sta guidando, non può telefonare mentre mettigli, guida. Mettigli il telefono accanto, sulla vicina alla mi bocca, metto no? Metto il telefono accanto, aspetta. Oh, aspetta, signor Zara 1? Zara 1, aspetta, eccolo. Ecco, io dicevo, non so come sono andate le cose. Sì. L'ex nostro premier si sì. è fatto la fama di donnaiolo, sì. adesso dovrà saperlo lui gestire le cose. Io non sono in grado di Ma non gliene frega niente, a lei alla fine, delle donne di Berlusconi non gliene può fregare di meno. No, non importa nulla a me. Non le importa nulla. Importa del nostro paese, e certo che il signor Berlusconi è coinvolto nel nostro paese, io ci tengo che questo nostro paese diventa migliore sì. di come siamo. Ma lei chi vota a Roma, ecco. Signor 01? Hai capito? Per chi vota a Roma lei? Insomma, vediamo. Sì, vabbè, non faccio la diplomatica. Per Marino, probabilmente. Per Marino. Per Marino. Ecco, poi ha detto anche che, appunto, è una vergogna questa cosa di Berlusconi, dei processi. Ma non è vero, non l'ha detto. Non è chiaro. Non l'ha detto, ma non ha detto nulla di genere. È veramente una vergogna. Un paese che è una fogna ormai, e quindi questo è il parere. Che ovviamente raccontiamo con sincerità, con trasparenza, senza falsare le notizie. Questo è no, beh, certo, non c'è dubbio. Allora, Esther dalla provincia di Milano. Dottor Cruciani. Dica, signora Esther. Volevo solo dire che l'avvocato che ha telefonato prima, l'avvocato Longo, sì. Longo ha detto che le ragazzine lì vengono aiutate da Berlusconi, Berlusconi, ma sì, con tutte le persone che hanno bisogno, sì. che fanno la fame, i disoccupati. Allora il cuore ce l'ha solo per le ragazzine, perché c'è in giro persone che sì. avrebbero bisogno di qualche soldo, no? E che ne so. E io volevo dire anche a quell'avvocato lì, perché sì. a suo tempo sembrava che uno della famiglia, lui ancora era socialista, che Pertini si gira nella tomba. Su che cosa? Dobbiamo vergognarci di essere ma di italiani. Ma di chi? Buonasera. Buonasera, Antonio da Piacenza, buonasera. Antonio, chiuda la radio, diavolo, chiuda la radio e parli se vuole. Gioco il fagiolo, vite. Antonio, ma di che sta? No, ci doveva fagiolo, cognazzo disgraziato, entiendo. Ah, già, già, pronto? Dica, Antonio. Ah, ciao, Cucciani. Dimmi, dimmi. Ascolta, io volevo manifestare. Sì, ma chiudi la radio. Chiudo la radio. Sì. Volevo manifestare, portando mio figlio davanti alla villa di Accoli con una bella maglietta con su scritto Silvio, meno male che Silvio c'è, e dietro Silvio Libero. Sì, ma manifestare dove, scusi? Davanti alla villa di Accoli. Davanti alla villa di Accoli, che ci va a fare davanti alla villa di Accoli? Io ci abito a 4 chilometri. La gente gli vuole bene, là. Lei vuole fare la manifestazione da solo davanti alla villa di Accoli? Sì, da solo, con tutti gli altri, con le altre famiglie e altri bambini. Solo che l'unico che indosserà questa maglietta sarà mio figlio. Ma perché deve coinvolgere suo figlio che sarà minorenne in questa cosa? Scusi. No, perché noi siamo tutti berlusconiani, è normale. Pure suo figlio piccolo è berlusconiano. Anche lui è berlusconiano. Sì, certo. Quanti anni ha suo figlio? 4 anni. E perché deve coinvolgere suo figlio di 4 anni in questa roba? Perché comunque sia è una persona che comunque la stanno attaccando troppo, è una persona che non ha fatto del male a nessuno, questa persona, secondo me la gente sta approfittando. Vabbè, grazie Antonio. Prego, Cristiano. Salvatore, ciao. Provincia di Padova. Sì, buonasera a tutti, ecco. Dica. Questo è un esempio di demenza, secondo me, questo Antonio. Ancora copriamo quello che ha fatto Berlusconi. Mi dico, per una persona che vuole portare a giudizio fino alla fine una persona potente pubblica, si parla di essere morbosi, di essere ossessionati da quella persona. È ridicolo. Comunque sia, siamo nei termini di legge, va perseguito. È quantomeno un esempio di legalità anche per queste persone. Poi? Abbiate pazienza. Sì. Poi è così generoso, bene, anch'io ho bisogno, ho 4 figli, se vuole fare un bonifico sono molto contento. Ma quello fa il bonifico a chi vuole, Non è che lo fa lei semplicemente perché è disoccupato oppure perché ha bisogno, scusi Salvatore. Cioè non è che la beneficenza è a tutti. Vabbè, quello è generoso verso chi vuole, abbia pazienza, anche là non è... Ma sicuramente, ma per carità, però la generosità è di chi ha bisogno, non solo sulle belle ragazze. Non si può dire che Berlusconi non fa male. Giuseppe a nessuno. Da Torino, grazie Salvatore. Giuseppe da Torino. Buonasera Cruciani. Vada. Io volevo dire a quel fatto che è successo a Milano, che hanno ammazzato 3 persone, no? Sì, più o io meno. Proporrei il porto d'armi, magari in certe zone più a rischio. Questa è la mia idea, là. In qualche zona più a rischio il porto d'armi, a parte che il porto d'armi c'è anche adesso, cioè lei dice la libertà di acquistare più facilmente, di acquistare le come in America, insomma, no? Sì, per esempio qui a Torino ce n'è zone a rischio. Come ma lei la prenderebbe una pistola e sparerebbe, Giuseppe? Alle gambe, non proprio... Si dice sempre alle gambe, poi quando uno sta là non è che spara alle gambe, spara, cioè non è che spara alle gambe, spara, punto. Per fermarlo in qualche modo, ma ho no, capito, lei sparerebbe, ho capito, non ammazzarlo, non è che uno può mirare e sparare, miriamo alle gambe, cioè bisogna fare dei corsi eccetera eccetera, sì lo so comunque lo sa. Comunque ci vuole più pistole in giro, ci vogliono sì, per almeno è legittima difesa, ho capito. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Io sono Giambattista De Monti, mi volevo prenotare per parlare con Cruciani stasera, perché se lo vedessi gli potrei parlare della mia Fiat Torero, che il cui tubo di scappamento mi butta dentro a me, no? Dentro. Deve parlare con loro. Quindi non... Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, quando lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questa non è Radio 24. Questa è Radio DJ, ciao belli. Ma non mi potrete fermare prima?